¿Aló? Pronto, chi parla? Quisiera hablar con... Vorrei parlare con... De parte de... Chiamo per conto di... De parte de quién? Chi parla? Un momento, por favor. Attenda un attimo, per favore. Se lo paso. Ve lo passo. Se la paso. Ve la passo. Salió. È uscito. Regresa en una hora. Tra un'ora ritornerà. ¿Puede decirle que lo llamé? Può riferire che l'ho chiamato. Mi nombre es... Mi chiamo... Mi teléfono es... Il mio numero è... Llamaré más tarde. Riproverò a chiamare più tardi. Gracias. Adiós. La ringrazio. Arrivederci. La linea está ocupada. La linea è occupata. Nadie contesta. Nessuno risponde al telefono. Mala recepción. La linea è disturbata. No hay cobertura. Non c'è campo. ¿Puedo cargar mi celular aquí? Posso ricaricare il telefonino qui?